Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il territorio isontino, con l'eredità della Grande Guerra, ma anche con la storia dei cantieri e le numerose rassegne che si svolgono, può arricchire l'offerta di Go 2025, un tema affrontato dai consiglieri regionali in visita a Sagrado, Ronchi e Monfalcone. La struttura fatiscente dell'ex macello di Udine, un riparo per quanti non hanno un posto dove ripotersi rifugiare la notte. La compagna di Zdenko Feriancic, il 48enne sloveno trovato senza vita all'interno del coroneo, ha nominato illegali che presenteranno un esposto in procura per la morte dell'uomo, rinchiuso in carcere in attesa della pronuncia della Corte d'Appello su una sua eventuale condanna definitiva. A chiedere aiuto ai centri anti-mobbing della regione sono soprattutto donne del settore privato a causa di umiliazioni sul posto di lavoro. È quello che emerge dai dati relativi al primo semestre di quest'anno presentati a Trieste. Carica una tanica con il gasolio in modo maldestro e lascia una striscia oleosa sul manto stradale causando due incidenti. Individuato dalla polizia locale di Trieste, dovrà pagare la pulizia del manto stradale e risarcire i danni subiti dai due incidentati. Nella classifica sul gradimento dei presidenti delle regioni e dei sindaci pubblicata dal Sole 24 Ore, Fedriga in cima alla lista. Buongiorno da Dario Ronzoni e Nada Ciocchi. In apertura di questo giornale radio la cronaca: è ricoverato in prognosi riservata il ragazzo 17enne che poco prima di mezzanotte, viaggiando sulla sua moto, si è scontrato con un'automobile a Gemona in via Zoratti, un impatto violento che lo ha sbalzato per almeno 8 metri causandogli politraumi. I sanitari del Sores lo hanno intubato e stabilizzato, quindi è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Udine. La dinamica dell'incidente al vaglio delle forze dell'ordine. Il Museo della Prima Guerra Mondiale del Monte San Michele, il Castello a Limonda e i progetti della rassegna Leali delle Notizie, tra i punti all'ordine del giorno dei consiglieri regionali della Quinta Commissione, che oggi hanno in calendario una seduta itinerante nell'Isontino. L'obiettivo è la valorizzazione dei siti in chiave Go 2025. Cogliere l'attimo, che poi in realtà non sarà così breve. Go 2025 è l'occasione per valorizzare il territorio isontino, dare impulso alle varie forme di un turismo che evolve. La Quinta Commissione Consiliare Regionale visita con questo obiettivo il Castello a Limonda, a Sagrado, sorto a fine 800 sulle rive dell'Isonzo, di cui passerà la nuova ciclovia, e l'edificio punta a rinnovarsi come contenitore culturale, lo sottolinea il sindaco Marco Vittori. Una ristrutturazione già avviata esternamente, manca la parte interna, ci vuole 1,5 milioni di euro per renderlo fruibile come centro multifunzionale legato ad un turismo lento. In quest'ottica si vuole realizzare una sala multimediale in un edificio sorto come casa di cura che aveva subito un incendio nel 1989. La visita poi si sposta sul Monte San Michele, teatro dei conflitti tragici della Grande Guerra. Il museo in cima al monte, grazie ad un intervento finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e dalla Regione, gode già di apparecchi multimediali e visori che consentono di scoprire la storia della Prima Guerra Mondiale, delle battaglie di trincee e delle sofferenze dei soldati attraverso la realtà aumentata. Un sito visitato già da scolaresche di tutta Italia, da valorizzare ancora, auspicano i componenti della Quinta Commissione del Consiglio regionale. Sagrado, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Vecchi edifici fatiscenti diventano un luogo di riparo per gli ultimi, per quanti non rientrano in alcun meccanismo di protezione. Così è accaduto al Silos di Trieste, ma così accade anche a Udine. Alcuni giorni fa il caso di un giovane marocchino che si è ferito mentre cercava di entrare in una casa disabitata in via Rovigno ha portato sotto i riflettori il fenomeno che trova nelle aree dell'ex frigo del macello di Udine uno dei suoi gangli principali. Le transenne sono piegate, nell'ex frigo si entra tranquillamente. Dentro tracce di vita, coperte, vestiti, bottiglie, testimonianze di marginalità e abbandono. A pochi passi dalla sede della regione Friuli Venezia Giulia dormono da anni i senza fissa dimora, i fuori accoglienza, gli ultimi. Chiedono alle istituzioni di fare qualcosa a residenti e amministratori del condominio Gardenia, 300 tra famiglie e attività commerciali, proprio davanti agli antichi locali frigoriferi del vecchio macello comunale abbandonato. Andrea Soramel, presidente regionale dell'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali. È un problema che si sta manifestando da più tempo, da alcuni anni, e quindi anche i condomini spesso hanno fatto delle segnalazioni, perché purtroppo questa zona, essendo ancora non riqualificata, rappresenta indubbiamente un punto di criticità. Sono lì dentro ancora, se lei va lì dentro ci sono ancora. Continua tranquillamente l'andirivieni di sempre. L'area è sorvegliata in quanto vicino alla regione, fa sapere la questura, ma non sono segnalate criticità dal punto di vista della sicurezza. In passato occupate anche le due palazzine adiacenti, quella del custode e l'ex sede della Croce Rossa. Oggi le finestre sono state sigillate. Talvolta chi cerca rifugio si sposta pochi metri più in là. Soprattutto nei periodi invernali, quando fa freddo, se trovano le porte aperte del condominio, comunque è facile accedere alle parti comuni di un palazzo, scendono negli scantinati e più volte abbiamo trovato persone dormire lì. Al momento il progetto di riqualificazione dell'ex frigo, bene vincolato dalla soprintendenza, sembra fermo al palo. Non bastano i 10 milioni di euro che arriverebbero dal PNRR, ne servirebbero almeno 23. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. La compagna di Zdenko Ferjancic, il 48enne cittadino sloveno morto in carcere al Coroneo, in quanto unica parente dell'uomo, potrebbe essere persona offesa in caso di processo e ha quindi nominato illegali che tuteleranno i suoi interessi. Avvocati che hanno già presentato un esposto in procura per quanto accaduto dietro le sbarre nella notte della rivolta. Si trova nella sezione femminile del carcere del Coroneo la compagna di Zdenko Ferjancic, il detenuto trovato morto per overdose venerdì pomeriggio all'indomani della violenta sommossa dei carcerati. È anche lei slovena, meno di 40 anni, non è mai stata tossicodipendente, ma ritenuta corresponsabile dello spaccio dell'uomo con il quale conviveva da più di 15 anni. Ha quasi interamente scontato la sua pena, tra pochi mesi sarà libera. Si tratta dell'unica familiare del 48enne trovato senza vita per overdose. Fuori dalla casa circondariale incontriamo il suo avvocato, Alice Bevilacqua, che da anni con il padre Paolo difendono la coppia. La donna sarebbe parte offesa in un eventuale processo. Noi raccoglieremo una nomina per la compagna, per tutelarla il più possibile, per assisterla in questa fase e appunto per fare chiarezza sui fatti legati alla morte di Zdenko. Lo studio Bevilacqua, noto in città per i casi Resinovic e Meran, ha già presentato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica per far chiarezza sulla morte dell'uomo trovato in condizioni di rigidità cadaverica, quindi morto da alcune ore. Le ipotesi da accertare potrebbero essere l'omissione di soccorso, dubbi sull'adeguata custodia del metadone, le possibili falle nella vigilanza. Un fascicolo da parte della Procura era già stato aperto d'ufficio lo stesso giorno del decesso. Non voglio pronunciarmi sul mancata vigilanza piuttosto che sui gravissimi fatti che hanno colpito il carcere, piuttosto capire appunto come si sono procurati quei farmaci che possono aver portato alla morte. Sono enormemente dispiaciuto per un epilogo che forse si poteva e si doveva evitare, dichiara in una nota l'avvocato Paolo Bevilacqua, che tanto si era battuto per far ottenere la custodia domiciliare all'assistito, residente però in Slovenia, a Nova Gorica, e per questo non gli era stata concessa. Pur facendo parte dell'Unione Europea è molto difficile portare dei detenuti in custodia domiciliare prima della loro definitività. Non siamo riusciti a portarlo a casa in attesa di giudizio. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ha creato non poco scompiglio la lunga macchia di gasolio sull'asfalto a Trieste, da Viale D'Annunzio alla Galleria di Montebello fino a Valmaura lo scorso 2 luglio, a partire dal ferimento di un ciclista e di uno scooterista finiti al pronto soccorso dopo essere scivolati rovinosamente a terra. La polizia locale di Trieste, intervenuta per i rilievi, ha scoperto che la macchia non si limitava all'area circoscritta ai due incidenti, ma si estendeva su tutta la direttrice da Viale D'Annunzio a Piazzale Valmaura. Si è resa quindi necessaria la bonifica della viabilità con la chiusura temporanea anche della galleria di Montebello. Gli agenti, visionando le telecamere lungo il percorso lasciato dalla scia, sono risaliti al responsabile, un autocarro che stava trasportando una tanica mal sistemata, tanto che ad un certo punto si rovesciava riversando il gasolio lungo il tragitto. Il conducente, disattento, dovrà pagare le spese sostenute dal comune per la pulizia lungo il tratto stradale e risarcire i danni patiti dai due feriti. E ora parliamo dell'efficientamento della rete idrica di Trieste. Grazie ai fondi PNRR, il comune Acegas APS Amga hanno illustrato poco fa gli interventi principali. Al via i cantieri a Trieste per la sostituzione di alcune condotte idriche con l'ambizioso obiettivo di ridurre le perdite del 13%. Il piano di intervento presentato dall'Autorità Unica per il Servizio Idrico e Rifiuti è stato finanziato con 37,4 milioni del PNRR e coinvolge tutti i gestori idrici uniti nella rete di imprese Smart Water Management FVG. Il progetto è entrato nel vivo con interventi a Trieste, con i cantieri aperti per supportare interventi di digitalizzazione e gestione della pressione. Entro il 2026 l'obiettivo è appunto di contribuire a ridurre a livello regionale le perdite, attualmente attorno al 40%, di addirittura al 13%. I cantieri per l'efficientamento delle condotte si trovano per ora in via D'Annunzio, via Coroneo e via Montfort, ma soprattutto in galleria Sandrinelli, dove l'intervento sarà più complesso e richiederà per alcuni giorni la chiusura al traffico privato della struttura. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. 12.40, siamo al meteo, il cielo in prevalenza sereno sulle regioni, queste le temperature registrate poco fa, Trieste 29,5 gradi, con il mare quasi calmo, con temperatura anche di 29,5 gradi, Gorizia 31,5 gradi, Udine Pordenone 30 gradi, Tolmezzo 27, Forni di Sopra e Tarvisio 25, Piancavallo e Sappada 21, Monte Zoncolan 19, Grado 30,5 gradi, Lignano 30 gradi, temperatura del mare in laguna 29 gradi. E queste invece le previsioni a cura dell'ARPA. Nelle prossime ore cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio sui settori montani più interni, specie verso il Cadore e il Comelico, sarà possibile anche qualche isolato temporale. Venti a regime di brezza, farà caldo ma un po' più secco dei giorni precedenti. Per domani cielo in prevalenza sereno, nel pomeriggio sui settori montani più interni, il Cadore, il Comelico, il confine con l'Austria, sarà possibile anche qualche temporale. Venti di brezza, farà caldo ma resterà probabilmente abbastanza secco. L'assessore regionale al lavoro, Alessia Rosolena, ha presentato i dati del primo semestre di quest'anno relativi ai centri antimobbing della regione. Le segnalazioni, ha spiegato, sono in aumento rispetto agli anni scorsi e la maggior parte delle persone che ricorrono ai centri sono donne del settore privato. La cosa che emerge è che c'è un importante incremento dell'utenza rispetto al 2023, che però è confermata come tipologia rispetto agli anni precedenti, quindi sono in maggioranza donne con un'età superiore ai 50 anni che arrivano prevalentemente dal settore privato con contratti a tempo indeterminato, un livello di istruzione medio-alto e una difficoltà crescente nel rapporto all'interno dell'azienda. E cosa denunciano di più? Qual è la tipologia di denuncia principale? Legata molto a rapporti concentrati su critiche e umiliazioni da parte del superiore. E qual è la provincia da cui provengono la maggior parte delle denunce? Da Udine, seguita da Pordenone. Un dato importante, che è sicuramente legato anche all'attività che comunque gli sportelli fanno di conoscenza del territorio, arriva anche da Gorizia. E secondo lei cosa significa questo aumento delle denunce? Io temo che esattamente come ciò che avviene nella vita privata di ognuno ci sia un tema di difficoltà di relazione che sta aumentando, e non è un caso che nel team che risponde alle richieste fatte dai lavoratori ci siano anche gli psicologi e i medici al fianco degli avvocati, quindi è proprio una verifica a 360 gradi di quali sono le eventuali motivazioni e di come possono essere affrontate per risolverle. Io in questo vedo più l'obiettivo della risoluzione, ovviamente, che l'obiettivo della denuncia nera. Secondo il sondaggio pubblicato dal Sole 24 Ore, che misura il consenso dei presidenti di regione, Massimiliano Fedriga è il presidente della regione con il gradimento più alto del 68%. Ai diretti interessati piace dire che queste classifiche lasciano il tempo che trovano. Nel mondo della politica, invece, ma non solo in quello, sono molto compulsate per valutare forza e popolarità di sindaci e governatori di regioni d'Italia. Oggi il quotidiano Sole 24 Ore pubblica i risultati 2024 che, per quanto riguarda i presidenti di regione, vede primeggiare quello del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che quest'anno divide il podio con quello dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il Veneto Luca Zaia. Un terzetto che da anni si scambia le prime tre posizioni. Fedriga ha ricevuto il 68% dei consensi, in aumento di quasi 4 punti percentuali rispetto al 2023. Maglia nera per il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, Michele Emiliano della Puglia, penultimo, dopo Francesco Rocca del Lazio. Per quanto riguarda i sindaci, sul gradino più alto del podio, quello di Parma, Michele Guerra, che precede il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, quello di Ravenna, Michele De Pascale. Riguardo ai primi cittadini dei capoluoghi del Friuli Venezia Giulia, il miglior piazzamento è di Alessandro Ciriani, di Pordenone, 26esimo, era 19esimo lo scorso anno. 31esimo invece Alberto Felice De Toni, di Udine, alla sua prima valutazione. Balzo in avanti per Roberto Di Piazza di Trieste, che dalla 66esima posizione dello scorso anno passa alla 45esima, mentre perde un punto Rodolfo Ziberna di Gorizia, che dalla 54esima piazza passa alla 55esima. Chiudono la classifica nazionale i primi cittadini di Roma, Palermo e Trapani. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. La Federazione Italiana di Medici di Medicina Generale esprime soddisfazione per l'accordo integrativo regionale sottoscritto insieme alle altre sigle sindacali SMI e CISL sulla quota variabile del compenso dei medici per l'anno in corso. L'accordo prevede che tale compenso sarà finalizzato a rendere operativi ed efficaci i percorsi di assistenza territoriale. In particolare, l'obiettivo sarà quello di incrementare il numero di pazienti presi in carico a domicilio, partecipare ai percorsi di telemedicina e concorrere all'appropriatezza prescrittiva di farmaci e di prestazioni sanitarie. Altri punti qualificanti sono la partecipazione dei medici di medicina generale ai programmi vaccinali e il coinvolgimento dei medici nelle prestazioni diagnostiche di primo livello. Una scuola estiva internazionale di lingua e cultura ucraina la organizza prima in Italia l'Università di Udine e prevede l'insegnamento della cultura e della lingua ucraina a più livelli affidati ai maggiori esperti italiani ed europei. Incontri a distanza con alcuni tra i principali scrittori di quel paese, una proiezione di film del cinema ucraino contemporaneo. Fra gli obiettivi, un inquadramento dell'attuale contesto internazionale e del ruolo dell'Ucraina nello scacchiere geopolitico dell'Europa. Responsabile scientifico della scuola estiva, che si terrà dal 15 al 29 settembre, è Emiliano Ranocchi, docente di lingua e letteratura polacca del Dipartimento di Lingue e Letterature. Con lo slogan «La guerra comincia qui», la caravana «Abriendo frontera» si è promosso un presidio ad Aviano davanti alla base USAF. Sentiamo. La guerra empieza aquí, paremos la guerra aquí. La guerra comincia qui, fermiamola da qui, lo chiedono di fronte alla base aerea di Aviano 250 attivisti e attiviste di Carovana, Abriendo Fronteras e Carovane Migranti, molti giovani, molte donne tra loro arrivati da Spagna e Italia e diretti verso la rotta balcanica. 10 giorni di viaggio per dire no alle guerre e al militarismo. Vengo dai Paesi Baschi e siamo qua con la caravana migrante contro le guerre, contro le basi della NATO, perché soltanto portano più guerre e vogliamo la pace. NATO no, basi fuori! NATO no, basi fuori! La carovana si sposterà poi in Bosnia e Erzegovina e al ritorno farà tappa anche a Trieste. L'attivista Gianfranco Crua. Lo slogan ci ha unito è no alla guerra ai popoli, no alla guerra ai migranti, perché pensiamo sia lo stesso sistema che ha organizzato prima le guerre tra i popoli, e ne abbiamo due, una in casa e una alle porte, e con lo stesso sistema sta aggredendo i migranti alle frontiere europee, li sta massacrando, li sta lasciando morire in mare. Aviano, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un cartellone che guarda al femminile con concerti che puntano a far risaltare la parità di genere. Dal 17 luglio al 24 agosto la rassegna di musica Move and Jazz alla sua 6ª edizione valorizzerà le artiste. Ne abbiamo parlato con il presidente di Simularte che organizza il festival, Federico Mansutti, che oltre a spiegare lo spirito di questa edizione ci ha elencato i concerti più interessanti. Il 18 luglio avremo Chiara Luppi, compagnia di 5 giovani musicisti provenienti da 30 università di musica europea, Il 21 luglio abbiamo Leonora Strino presso Corte Morpurgo a Udine, così come sempre presso lo stesso luogo ci sarà Miranda Fernandez, che è una pianista spagnola con cui abbiamo una forte collaborazione con un centro proprio di scuola di musica di alto livello. E proseguiremo poi il 25 di luglio per la tradizionale serata del contemporaneo al Vigne Museum, in collaborazione con l'associazione Vigne Museum. Avremo il piacere di ascoltare Daniele Di Bonaventura. Torneremo a Udine il 27 luglio, questa volta presso il parroco Moretti, con La Peca, che è un collettivo di giovani musicisti provenienti da Trieste per lo più, che propongono musica originale. Un altro concerto degno di nota è sicuramente il 1 agosto presso il Giardino del Torso, sempre a Udine, in compagnia di Rita Marco Tulli. Qual è lo spirito di questa rassegna? More Than Jazz nasce proprio con l'idea di andare oltre l'etichetta, perché ai giorni nostri che cos'è il jazz? È difficile definirlo. E quindi grazie a questo nome ci spingiamo tutti gli anni verso progettualità che guardano la società odierna e cercano anche di dare dei segnali, delle risposte grazie alla musica jazz. In particolare quest'anno la stessa edizione l'abbiamo intitolata Women, scritta però in modo errato perché suona come donne, ma è scritto We come noi, men come uomini in senso appunto di umanità, e il suono women proprio include, vuole includere tutto il genere, tutti i generi insomma di noi esseri umani. 70 poliedrici musicisti provenienti dal Belgio, Australia, Austria, Inghilterra, Canada, Francia, Paesi Bassi, Ungheria, India, Italia, Russia, Serbia compongono l'orchestra Etno Histeria, che sarà in concerto questa sera a Trieste in Piazza Verdi alle 21. La particolarità dell'orchestra Etno Histeria è che suona senza partiture, creando ogni volta nuove dinamiche attraverso l'improvvisazione, proponendo una serie di brani musicali multietnici arricchiti dalle sonorità locali di ogni musicista, che i partecipanti in soli 5 giorni armonizzano creando arrangiamenti complessi e originali. Automobilismo, Bernardino Marsura insieme a Paolo Lizzi sulla sua Porsche 911 RS ha vinto la 28esima edizione del Rally delle Alpi Orientali Storiche, valido per il campionato nazionale auto storiche. Già in testa dopo la prima giornata e due prime prove speciali disputate tra Trivio e Stregna, il pilota di Valdobbiadene ha fatto proprio anche due delle sei frazioni corse domenica tra Canebole e Massarolis e nella valle di Suffumbergo. Sulle stesse strade nel fine settimana anche il 59esimo Rally del Friuli Venezia Giulia, prima prova della Coppa Rally di zona 5 senza rivali, il ligure Francesco Aragno, che ha chiuso con quasi 40 secondi di margine su Matteo De Sabata. E questa era l'ultima notizia del giornale radio, che è stato redatto e condotto da Dario Ronzoni e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Riccardo Stoic e Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.